La questione è sollevata ormai in Parlamento, c'è una commissione al Senato che si occuperà nuovamente della spinosa vicenda dell'uranio impoverito. Fino ad ora i comandi militari e le varie indagini avevano teso ad escludere il pericolo che l'uranio impoverito fosse la causa dei tumori che stanno bersagliando purtroppo i militari italiani nelle loro missioni, che si sono stati impegnati nelle missioni dei Balcani. Tuttavia la questione è ormai diventata una questione veramente grossa e la preoccupazione che serpeggia fra i militari che hanno partecipato alle missioni nei Balcani, in Kosovo, è altissima. Si parla ormai di una quantità di decessi ben superiore rispetto a quelli che sono i dati di media. Vorrei ricordare che la questione dell'uso dell'uranio impoverito e del bombardamento effettuato appunto con questo tipo di materiale perforante fu sollevata da Pisling già durante le operazioni militari nella guerra del Kosovo e ponemmo il problema appunto in un apposito dossier dei rischi connessi all'uso di questo tipo di materiale. Poi nel 2000 realizzammo una mappa dettagliata di tutti i punti in cui erano stati lanciati proiettili con uranio impoverito e quella mappa che fu realizzata utilizzando informazioni della NATO non secretate, ma che comunque non venivano fornite dal governo italiano, divenne uno strumento di informazione su internet veramente importante, tant'è vero che costringemmo di fatto il governo italiano, che allora era un governo di centrosinistra, a fornire esso stesso le mappe che noi avevamo fornito qualche tempo prima. Quindi fu nel 2000 che venne fuori il grido d'allarme e nello stesso tempo venne approfondito il lavoro di informazione scientifica e dal 2000 al 2004 si sono susseguiti degli studi che però non sempre, parliamo della Commissione Mandelli, hanno portato vicino alla verità. Adesso si spera che con questa nuova iniziativa che coinvolgerà i parlamentari, in particolare i senatori, si possano acquisire documentazioni utili per un accertamento della verità. In ogni caso, da tutta questa vicenda emerge una situazione molto grave. Mentre i militari americani avevano informazioni circa la pericolosità dell'uranio impoverito, i militari italiani hanno per molto tempo operato senza protezioni e di questo purtroppo ne hanno fatto le spese tanti e tanti soldati. Pisling è impegnata come realtà di telematica per la pace, non solo per la difesa dei valori della pace e dei diritti umani, ma anche è impegnata per la difesa di quelli che sono i diritti dei soldati. Crediamo che le principali vittime della guerra, oltre ai civili, siano proprio i soldati, che quindi un impegno per la difesa dei diritti dei soldati e per la pace sia qualche cosa che non contrasta con gli obiettivi del nostro movimento, che è un movimento ispirato ai valori della pace.